perché ci vuole anche una pizza a crimpare e non è semplice, perché se sbagli ci ributti tutto, devi di nuovo ritagliare e riformare tutto. Sì, lo so, infatti è un lavoro da fare con una certa attenzione, quello lo so. Vabbè, dai, adesso vediamo piano piano, cercheremo di migliorarci. Ha già fatto passi da gigante, quindi non può pretendere, deve accontentarsi di quello che ha per il momento, dai, che anche è troppo. Assolutamente d'accordo, anzi io mi vantavo che uno di quelli più veloci a fare il salto grande, ma Riccardino mi ha scavalcato, e parliamo in breve termine, io insomma in un anno ho fatto salti mortali, diciamo da 0 a 10 ho fatto, lui invece ha fatto in due mesi da 0 a 10 quello che io ho fatto nell'arco di un anno. Lo so, spero comunque che tenga in considerazione questo fatto, che non dia tutto per scontato, perché sennò poi tutto non ha valore, non ha senso, no? Assolutamente, ci sono cose molto più importanti, soprattutto la scuola, prima di tutto lo studio, che quello ti darà i soldi per mangiare, la radio soldi non te ne darà per mangiare, deve essere un passatempo, senza togliere niente alle cose più importanti. Infatti gli ho detto anche l'altra volta, Riccardino, ma un ragazzo con la testa attaccata al collo è soltanto un'informazione che gli ho dato, perché capisco benissimo che non c'è bisogno di dirglielo, c'è un'educazione eccellente, è un ragazzo educato, intelligente, per cui lo capirà senza bisogno che glielo ricordi nessuno, deve essere un divertimento, ma fatto sempre con passione, senza esagerazioni e senza niente, ascoltando anche i consigli di qualcuno un po' più esperto, così non si prendono delle fregature o delle cose strane, dai. Piano piano tutto informandosi bene, senza fare passi troppo lunghi, perché poi ci dico che si fanno degli errori e si buttano via di sotto. Beh certo, ma poi nella vita una regola fondamentale è soprattutto chi non fa tesoro delle esperienze degli altri è solo uno stupido. Assolutamente, c'è sempre da imparare, io sono il primo che lo dico in tutti i campi, anche se qualcosina ho imparato, però mi accorgo che non so niente, perché quando parlo e ascolto delle persone veramente competenti mi reputo un ignorante confronto a certe persone, ma in tutti i campi è così. Bisogna essere molto chini di testa, avere l'umiltà di ascoltare e soprattutto stare attenti a quelli che dicono tante cose che sono convinti di sapere. Chi sa veramente non è un presuntuoso, una persona umile, io te lo dico per esperienza, non in questo campo radiantistico, in altri campi molto più delicati, ho avuto l'onore di parlare con persone di grandissimo livello di levatura e mi sono reso conto che quando tu sei convinto di sapere non sai niente, ci sono persone che ti danno delle lezioni con tanta umiltà e quelle sono le persone che cui bisogna cercare di seguire, non i qua che ce ne sono troppi in giro. Ah certo, quello lo vediamo ogni giorno, siamo circondati, quindi è più facile il contrario, no lo so, l'esperienza e poi l'umiltà è la cosa principale che ti permette di apprendere, di poterti migliorare, di sapere l'infinito, perché poi c'è l'infinito. Hai detto bene, c'è sempre da imparare in tutti i campi, non c'è un campo dove puoi dire sì, abbiamo scoperto qua e ci siamo fermati, non c'è più niente da scoprire, in tutti i campi, anche la matematica che è una scienza esatta, c'è sempre qualcosa di nuovo e qualche informazione o qualche elemento che è da aggiungere a quello che è stato studiato prima, non parliamo di campi medicali, campi chimici, campi spaziali, astronomi, cioè di tutti i settori c'è sempre qualcosa di corso, da inventare e da scoprire. Vabbè, dimmi di questo ricevitore, cosa ne pensi? Quello è un apparecchio vintage, sinceramente non te ne fai niente di quella cosa, quello lì è, le regolazioni vengono fatte manualmente, sono apparecchi diciamo per usi diversi, non è per cose che puoi utilizzare tu, quelli sono a micro switch, la frequenza la imposti come micro switch, quelli vanno bene, li utilizzano per fare apparecchi ripetitori e cose del genere, sono apparati di riferimento, ma non ha niente a che vedere con l'uso che ne puoi fare tu, lascia perdere. Tu devi avere una cosa semplice da utilizzare con sintonia continua, quello lì chiamiamola canalizzata, detto volgarmente, di lì gli imposti la frequenza a tu e lui ti legge con la frequenza lì, è troppo macchinoso, non ha memoria e non ha niente, o se ce ne ha di memoria ne ha ben poche. È tipo un po' quell'apparecchio che ho io, l'hai detto, col ricevitore, quello grosso, però quello c'ha una sintonia continua, ti permette di farlo in continuo di lì, mentre di lì non ha neanche l'impostazione digitale, i numeri, quelli mi ricordano i vecchi trasmettitori FM delle radio private che c'erano i contraverse per impostare la frequenza. Ottimo ricevitore, niente da dire, qualità eccelsa, però c'è molto molto di meglio, più recente e più semplice. E va bene, non me ne faccio niente allora. Eh no, perché ho visto che era da, faceva da 0 a 30. Certo, può fare la 0,30, ma quando tu c'hai un apparato deve andare a 27,550 e lo devi scrivere, poi deve andare a 27,555 e lo devi impostare con i controversi. Non è così semplice da utilizzare, quelli li usavano in apparati marittimi, sulle navi, dove per dire tu imposti la frequenza della stazione marittima, non so quanto sia, gliela imposti e accendi quel ricevitore di lì, direttamente fisso su quella frequenza, stabile, super selettivo, super sensibile. Niente da dire qualitativamente, però non serve a niente per quello che devi fare tu. A meno che uno dice devo ascoltare solo quella stazione lì, mi imposto su quella stazione, ma a quel punto cioè, stai spendendo soldi, quello è un apparecchio che io penso non ci abbia meno di 50 anni. No, ma infatti è meglio mi compro una cosa più moderna, che è meno macchinosa, e faccio prima, come hai detto tu, c'è una sintonia continua, che tipo se mi devo spostare, che fa un esempio su 10 kHz, almeno quello, invece con quello devo girare, come hai detto, è macchinoso. Sì, sono cose professionali, sono apparati professionali, non hanno uso radioamatoriale, nel senso di per amatori, per fare radioascolto. Ti conviene cercarti al limite, se vuoi, qualcosa tipo un ICOM, quelli ICOM sui ricevitori sono all'avanguardia, c'è di meglio, però hai visto che quello che c'ho, il 7000, va più che bene. Poi se vuoi qualcosa di meglio c'è, però devi spendere 5 volte tanto. Ma un ICOM riceve 7000, diciamo sui 400 euro si trova. Poi puoi trovare 7100 più o meno a quel prezzo lì, un po' leggermente inferiore, però c'ha qualcosa in più come memorie, come selettività, se la gioca non cambia più di niente. E poi se vuoi fare il salto grande vai dagli 8000 in su e c'è un po' di tutto. Poi se vuoi una cosettina giocattolino, ci sono le AR3000 che sono semplici, l'hai visto quello che ho io, con quello con 150 euro te la cavi, però c'ha dei grandi limiti eccetera. E infatti vediamo se voleva entrare qualcuno comunque, perché cioè, sono sempre così. No vabbè, niente, se voleva entrare qualcuno, se no continuiamo. Ok, aspetta, faccio anche una chiamata magari da questa parte, forse mi ascoltano meglio qualcuno per altre direzioni. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare? Ci sono dei segnali lontani, dai, sicuramente sono di propagazione, qualcuno che parla. Ok, tu devi capire cosa vuoi fare. Io sono un grande amante del radioascolto, per cui hai visto che mi sono organizzato con un po' di tutto. Dedicare, la cosa migliore è avere dei ricevitori dedicati per quello che devi ascoltare, uno per quella banda lì, uno per l'altro. Se invece non riesci a farlo, ti prendi un stazione base che ti faccia prendere da 0 a 2000, da 25 a 2000 o quello che vuoi tu. E vedete, quando il ricevitore è troppo larga banda c'ha dei compromessi, per cui non ha quei filtri per dire in certi tipi di frequenze, deve ascoltare per dire certe frequenze, soprattutto con le broadcasting da 88 a 108 ti creano dei grossi problemi alla ricezione di stazioni per dire aeronautiche e cose del genere, dovresti mettere degli attenuatori, dei filtri per il coso. Ci sono dei ricevitori che ce li hanno già inseriti, tipo l'ICR7000 qualcosa c'ha di funzionale, se vai sulla R3000 lo senti sordo, muto, perché ti coprono tutti questi segnaloni delle broadcasting. E infatti lì comunque in Udonia e sono di quelli buoni, che non sono neanche macchinosi. Oggi a proposito è una propagazione un po' strana, secondo me no. Sì, vabbè, dipende dallo skip, molte volte, ieri era molto lungo per cui era molto aperto, arrivava sino, ti copriva dalla bassa Italia sino, aspetta, dove ho ascoltato, in Inghilterra, ieri ho parlato con questo Middlesbrough in Inghilterra, ho parlato, poi c'era la Francia, che da tanto non la sentivo, Germania non ne parliamo, e poi c'era il Belgio, l'Olanda, un po' di tutto, però sono sporadiche, non sono continue, per cui ci sono centinaia e centinaia di modulazioni uno sopra l'altro, e non è bella così, è più bella quando è più, lo skip è più breve, riesci a ascoltare meno sovrapposizione di cose, di canali e di voci. Ho capito, sì, quando c'è lo skip alto, come dire alto, uno skip lungo che non è fissa la propagazione, è a momenti, hai più raggio di estensione per parlare, però non dura molto. Purtroppo è troppo, il territorio è troppo vasto, per cui sono uno sopra l'altro. Molte volte riesci a parlare con uno, dopo un secondo c'è l'altro. A quest'anno poi sarà anche peggio perché c'è il decennale, credo, se non sbaglio, ripeto sempre, l'ho detto anche ieri, delle macchie solari. Ogni 10 anni c'è il picco delle macchie solari. Le macchie solari influiscono tanto la propagazione, e quest'anno, 2020, per quanto mi ricordo io, è l'anno proprio del picco delle macchie solari, qui ci saranno degli eventi molto, molto vasti a riguardo della propagazione. Ci ascoltare probabilmente delle zone che sarà molto difficile ascoltarle, oppure dei confusioni totali, come è successo in questi giorni, che non si capisce niente, segnali 9 più 20, 9 più 30 dalla Germania che coprono i segnali qua di queste locali. Ho sentito infatti lo show, infatti ho fatto capito, tu di, se posso dirlo così, che di solito quando c'è molta propagazione ti metti la multibanda che almeno te li attenua un po' i segnali. Sì, o se no, cioè, certo, vabbè, c'è anche la possibilità in orizzontale di ascoltare orizzontale, ti sposti appena appena, ti orienti, puoi fare qualcosa. Allora, io l'ho attaccata, l'ho data via a Claudio, poi ce l'avevo uguale, identica, quella direttiva lì. Adesso devo montare un'altra, però per altri tipi di ascolti, dai, non qua in 27, per altre cose, che sono più appassionato, diciamo, di quel tipo di emissione, e basta. Però, volendo, posso mettere la multibanda e mi attenua di 10 dB di cose, guadagno. Ho capito, buono. Ma tu lo conoscevi già questo Salvatore che è entrato oggi? Io non l'avevo mai sentito. Era un po' basso, da dove trasmette? Allora, quello è un radioamatore, diciamo di recente è diventato radioamatore, penso 6-7 anni fa, forse di più. Ci aveva fatto delle belle chiacchierate, una persona in gamba, diciamo molto, molto educata, corretta, non è un pompato, perché tante volte puoi trovare delle persone pompate, lui è una persona tranquilla. Ci siamo sentiti qualche anno fa, era un po' di anni che non lo sentivo, e basta, trasmetteva la zona di Cappuccini, c'ha delle belle apparecchiature, il problema è che aveva un affilare, un dipolo filare, e stava utilizzando un apparato un po' più sofisticato, non l'ha voluto dire, però era un grande apparecchio sicuramente, però con quell'antenna non andava da nessuna parte, era dedicata per altre cose, è come che ci avesse un pezzo di filo e con l'accordatore stava cercando di correggere. Lo so, perché a volte lo ricevevi e a volte spariva il QRM. Lo so che il filare non è adatto per la 27, è adatto per le altre bande, come dire, è adatto per le altre bande, non per la 27. No, vabbè, primo motivo, prima di tutto l'antenna deve essere accordata. Quando prendi un pezzo di filo di lunghezza d'onda diversa da quella che devi ricevere, poi la cosa principale è che era in orizzontale, noi siamo tutti polarizzati in verticale, per cui i segnali vengono di gran lunga attenuati. Lui se lo usa nell'HF con lunghezza dedicata, per dire un cavo di 40 metri o mezz'onda di 20 metri, diciamo misure più o meno senza dire la misura esatta, diciamo per i 40 metri usi una mezz'onda più o meno 20 metri di lunghezza, in orizzontale fai dei collegamenti internazionali e anche intercontinentali, in certi casi si riesce a fare la notte in situazioni particolari di propagazione, ma qua il 27 non va da nessuna parte, a meno che non ce l'hai un po' orientato in quella direzione, ti sposti appena e poi perdi tutto. Ma infatti lo so che com'è la storia, che se siamo tutti in verticale, come dire, per detto così è meglio, perché la lunghezza onda è diversa, perché è diversa perché lui era l'unico in orizzontale. All'orizzontale va bene quando devi fare DX, quando sono collegamenti molto lontani. Io la volevo piazzare quella che avete voi, la tre elementi, metterla in verticale, fare una prova in verticale col rotore, però ci voleva un palo in coso, non conduttivo, per dire in cavo in vetro resina o in PVC, e poi alla fine ci ho rinunciato perché dovevo mettere il motore tutto quanto, e non lasciamo bene. Ero già quasi pronto a fare tutto, ci sono già i cavi pronti per collegarmi, e poi alla fine non ho avuto tempo, perché l'idea mia era metterla in verticale, ho detto così faccio schicchiare un po' di gente. Perché dici che va meglio? E cazzo, se va meglio, tu ne avrai il guadagno che c'ha con l'antenna lì montata in verticale, ti metti nella direzione dell'antenna della zona dove devi ricevere, a voglia che spari, è una bomba, ripeto, fate conto, il guadagno tipo dell'antenna sono 6 dB, contro la Mantova stiamo parlando guadagno effettivo, anche se ne dichiarano 5 volte tanto, la Mantova c'ha 1 dB e qualcosa di guadagno, quando lì stai parlando 6 dB di guadagno, cosa vuol dire 6 dB? 4 volte 4 dB è il doppio della potenza, tu ne hai 6, per cui stiamo parlando, adesso non mi ricordo il calcolo come si fa, però 6 dB sono 4 volte la potenza, 2 dB, 4 dB sono 2 volte la potenza. E metterla su un palo in vetroresina? Devi mettere su un palo in vetroresina, ma senza alzare il canale. Allora aspetta, 3 dB è il doppio della potenza, 6 dB è 4 volte la potenza, per cui se c'è 100 watt è come ne hai 400, senza toccare la potenza, hai capito? Il rapporto è così. Una Mantova il guadagno effettivo, perché poi dicono fesserie, circa un decibel di guadagno, per cui quello che ci entri. Ma vero, i pali in carbonio, quelli conducono? In carbonio, a parte che in carbonio costerebbero troppo, i pali in carbonio e le canne da pesca, ci sono, ma sono troppo sottili, di fare un palo robusto, per metterle col su con la terra ci vuole un palo robusto, ma conviene prenderli quelli in PVC grossi, molto robusti, molto elastici, e soprattutto viene bene anche a stringere, quello in carbonio è fatto da fibre, per cui non riesce a stringere con il coso, è tipo un nastro, una gazza avvolto il carbonio, una cosa del genere, sono delle operazioni produttive molto complicate. Poi tutto quel PVC ci sono, quelli grossi, belli robusti, con l'interno da 3 mm, metti un palo di quello, ti puoi mettere il rotore in cima, ti puoi mettere l'antenna motorizzata, ed è una cosa interessante da fare. Oppure un'altra idea che volevo fare, però il guadagno che è presente è il doppio, cioè non il doppio, scusa, sto dicendo mettere due antenne accoppiate, due Mantova accoppiate, c'hai quasi, non dico il doppio, diciamo il 50% in più di guadagno che avere una Mantova da sola. Ma noi, per dirti, abbiamo anche quei pali di carbonio dei windsurf. Ah, quelli del coso, della tavola, quanti metri su? 4 metri in vetroresina. 8 metri di un windsurf, che cazzo devi fare? 4 metri, 4. Ah, ho fatto 8 metri, io adesso che usare una batta vera. Bisogna vedere, però è conico, si accorcia in cima, no? Sì, un poco si accorcia in cima. Diametro, e poi come la fissi, c'è il coso, risulta storta l'antenna, perché se a salire è tipo un imbuto, la cima è più sottile e sotto è più grossa. Non so se venga bene a piazzarla, perché ti risulta un po' storta l'antenna. Conviene provare, si può provare, ricordi, non costa niente, provare. Però mettere il motore, devi metterlo in un posto ancorata bene, eccetera, eccetera. Comunque sono molto robusti. Tieni presente che l'antenna montata in verticale, il rapporto vento, città del vento è 10 volte di più che metterla in orizzontale, lo sai tu, perché la parte soggetta al vento è molto ma molto maggiore, più il peso suo dell'antenna, i contraccolpi che dà, se non c'è un palo di grande resistenza lo spezza in due, a parte che si rispetta l'antenna. Ma sono creati per sopportare il vento di windsurf, che quando vuoi già va forte. Sì, già lo so che va forte, però ti hai presente che il peso della forza del vento è distribuita, di lì stai scaricando in un punto, per cui lo sai come lo spizzi tu, anche se il carbonio c'è una grandissima resistenza, però è fragile il carbonio, molto resistente alla, come si chiama, come durezza, però come si chiama, flessibilità, non pensare che sia un granché, molto, molto rigido e fragile, più duro è il materiale più fragile. Ma so che il carbonio conduce un po'. Guarda, anche io so, però non ci metto la mano sul fuoco, perché il discorso, se il carbonio puro al 100%, per me cosa ci mettono? Poi ci mettono delle vernici sopra, non sono delle vernici, sono dei prodotti tipo dei nastri adesivi avvolti, e devi vedere se quel prodotto che ci mettono sopra è conduttivo, perché molte volte c'è del conduttivo. So che alcuni sono andati a pescare con la canna in carbonio e sono rimasti fulminati. No, beh, rimane fulminato anche se c'hai un coso, una canna per pescare in resina, non c'entra niente, perché il fulmine scarica nel punto più alto, perché l'albero, il legno dell'albero mica è coso, il legno non è conduttivo, anche se c'è dell'umidità nell'albero, diciamo, è bagnato, però se tu prendi un ramo secco e lo metti in spiaggia dove non c'è niente, una zona che non ci sono oggetti alti, tu prendi un pezzo di legno asciutto, cade il fulmine e ti fulmina lo stesso, il fulmine cade nel punto più alto normalmente. Ho capito, hai ragione, non ho ragionato prima di parlare. Per cui è quello il problema, succede al mare perché non ci sono degli edifici alti, per dire in città c'è sempre sull'edificio più alto, se no ti vanno sempre sui grattacieli, di lì ci sono sempre montati negli Stati Uniti, l'hai visto, sono i grattacieli, sono sempre i parafulmini, la Torre Eiffel, eccetera eccetera, anche qua in zona da me ce ne sono qualcuno di parafulmini, dove c'è giù la finanza, c'era nei Vigili del Fuoco, ce n'è più di uno qua in zona di parafulmini, proprio negli edifici dove sono rischiosi i rischi dei fulmini, quando si costruiscono i palazzi bisogna fare la relazione per la protezione dagli eventi, come si chiama, da questi eventi qua, da questi eventi pericolosi. Se non sbaglio, nelle scuole anche la gabbia di Faraday. Hai detto bene, la scuola è obbligatoria, ovvero la gabbia di Faraday, che scarica una specie di parafulmine, però è tutto intorno, si mettono dei nastri in metallo, chiamiamoli nastri, dai, delle piattine che circondano tutto l'edificio con un picchio in modo che se scarica di lì butta tutto sulla terra. Ti presente, anche se c'è il parafulmine, i danni ne fa, diciamo nel circondario fa danni. E lo so, brucia tutto. Sono centinaia di migliaia di volt, centinaia di migliaia di ampere, non è tanto il voltaggio, che il voltaggio sino a un certo punto, la corrente è quella pericolosa, perché ci sono centinaia di migliaia di ampere, tu non è cosa sia, perché tu la candela della macchina sono 20.000 volt, però sono 1.000 ampere, per cui non ammazza nessuno, tu fatti conto, con tutta la potenza, hai visto gli accendini che tirano quella piccola scorsettina di lì, gli accendini per dire hanno 10.000 volt, però hanno 1.000 ampere, per cui altrimenti ti fa una vibrazione, un pizzichio, fatti conto tu con 100.000, 200, 300.000 volt e con una tensione, non una tensione, una corrente di milioni di volt è più potente di quella che ti dà l'accendino. Che i taser hanno un voltaggio alto? Sì, però sono pochi milliampere, per dire ci avranno 20.000 volt, ma non è il problema della tensione, non è che la tensione ti uccide, il problema è la corrente, è come tu a casa c'hai 220 volt, però se c'hai piedi bagnati e scarichi a terra, cacchio, ti prendi una bella scossa, se invece tocchi 220 e c'hai le scarpe asciutte in gomma, non fai l'arco voltaico, per cui non ti succede niente, altrimenti ti senti un pizzichio nella cozza. Però se sei scarso, anche con 80 volt, 100 volt, rischi la vita. Ad esempio i cavalli ne risentono molto. I cavalli? Perché cavalli? Perché c'è molta distanza tra gli anteriori e i posteriori. Ma non ho capito, ne risentono di che cosa? Della corrente lì? La corrente, ne risentono molto. Quando ci sono i temporali? No, delle anche piccole scariche. Ah, non sapevo di questo, pensavo fosse la stessa cosa. Forse i nervi, il sistema nervoso è più vicino davanti, lo scarico sentono di più nell'anteriore, il posteriore arriva leggermente in ritardo e magari gli dà una contrazione. Non lo so, non me ne intendo. No, fanno molta resistenza tra le zampe anteriori e le zampe posteriori. Sarà così, non lo so, non me ne intendo, ti ripeto, non è il campo mio. Noi usiamo anche i recinti elettrici. Perché li usate i recinti? Ma non sono fuori legge. No, non sono fuori legge. E che tensione lavora? Bassissime. E bassissime è quanto? 50 volt, 30 volt? 12, 12 volt. Cioè 12 volt l'animale lo sente. E anche molto. Non lo sapevo, pensavo, anche gli elefanti ho visto nelle riserve, ci sono elettrificate, però pensavo a tensioni molto più alte, qualche centinaio di volt, vuol dire 100 volt. No, no, sono sensibili. E voi perché lo mettete per non farlo uscire fuori dal recinto? No, quando devi delimitare in una zona. Ma quando vuoi fare addestramenti o cose così? No, quando lo devi lasciare entro il recinto, che non scappi. Per farti un esempio, quando c'è un maschio entro il recinto e c'è, e come dirti, c'è l'altra, la cavalla fuori. Ma loro lo sentono prima di toccarlo la corrente o devono per forza toccarlo? No, prima devono prendere la scossa. Sì, ma una volta che ha preso la scossa, lui senza avvicinarsi la sente già, oppure deve per forza toccarla per sentirla la scossa? No, deve toccare, la tocca e poi non si avvicina più. Ah, così, no, perché molte volte possono avere gli animali una sensibilità, anche senza toccarla, si avvicinano e sentono che c'è un campo elettrico, magari sono più sensibili rispetto all'uomo. No, come ho detto, la toccano una volta, poi non si avvicinano più che la temono. Ma si nervosisce l'animale quando lo sente, raglia, non raglia, come si dice, striglia, com'è il verso del cavallo? No, non fa nessun verso, scatta solo. Come si dice, il cavallo, l'asino non raglia, il cavallo, come si dice, non mi viene la parola. Nitrisce, così, non nitrisce, dico, quando prende la scossa. No, non nitrisce, neanche se si rompe una zampa. Non si lamenta? No, non si lamenta, ho visto alcuni che fanno allestramenti o per altre cose, non nitrisce per niente, come ho detto, neanche se si rompe una zampa, non ne fa, non nitrisce. Che bella cosa, ma voi ne avete due di cavallo? Sì, due, prima ne erano 12, da 12 si sono trasformati a due. E che hanno fatto gli altri lì? Venduti il commercio equino. Ma per correre o per mangiare? No, passeggiate, io non ne vendo cavalli per mangiare, meglio me li tengo. Sì, ma quei 10 che avete venduto sono serviti per uso, diciamo, per passeggiare o per riproduzione? No, passeggiare, se erano per produzione io non ne davo, te l'ho detto, meglio li tenevo, no, erano per passeggiate. Ma avete maschio e femmina o solo maschi? No, un castrone e una femmina. Ma si possono accoppiare tra di loro quei due o non si fa? No, è castrone. Cosa vuol dire castrone? È una razza? Non ha più le palle da calcio. Ah, non ha più, non può riprodursi. E come mai è stato castrato l'arrivato? Perché era un po' irrequieto, prima che avevamo il recinto elettrico sfondava il recinto per uscire. E quando lo fai castrare non lo fa più? No, diventa più tranquillo. E dimmi una cosa, e non c'è modo di addestrarlo l'animale? No, perché istintivamente è l'istinto animale. Non lo sapevo questa, io vedevo sempre i film western che c'era il cavallo imbizzarrito, selvaggio, ci saliva sopra il tipo, lo calmava e poi diventava un cavallo da sella. No, questo ha gli ormoni. Ma è grande come cavallo? Sì, adesso è grande, è il 99. Come vuol dire 99? 1999. No, grande come fisico, dico, non di età. No? Sì, è grosso. E si fa cavalcare? Sì, si fa cavalcare, è tranquillo. E l'altro? L'altra, anzi. L'altro è una puledra ancora da domare. E chi li doma? Voi li domate o viene domato? Oh, babbo, che lui addestra cavalli da 30 anni. Non sapevo, dai, buona sapessi. No, vabbè, io non è che sia molto addentrato sul campo equino, tantomeno di altri animali. Niente, qualche cagnolino, qualche cane ho avuto, ma niente di più. Non è il campo mio quello. No, pensavo che li si fate anche per riprodurli, venderli, perché molta gente li fa percorrere, per fare gare. Io conosco il direttore dell'ippodromo, era un cliente d'officina, lui c'era tutti i campioni, i cavalli per fare cosa, scommesse, eccetera. Li conosce tutti, babbo, dal primo all'ultimo. Non ricordo neanche come si chiama, ci credi? Aiutami, se te lo ricordi tu me lo dici. Aspetta, non mi viene il nome. Ah, quello di Nusby? No, non so di dove sia, però è l'ippodromo di Sassa che sto parlando. Non mi ricordo il nome, come si chiama, cacchia. Fammelo ricordare un attimo, anche a me mi sfugge. E c'è una vita di lì, non so se l'abbiano rieletta, ma era lui, tutto organizzava tutto, le corse, eccetera. Oh sì, è sempre lo stesso, l'hanno rieletto. Sì, vediamo un po' sul 10 se c'è qualcuno che vuole entrare, tanto sono sicuro c'è un sacco di gente che ascolta. Magari non interessa la conversazione. Avanti, sul 10 che vuole entrare. Non c'è Capri, molto io rimango ancora qualche minuto e poi vado via. Anche se domani non si lavora, però sono un po' stancotto, perché oggi è stata un po' pesantuccia. Ma tu stai dormendo di lì in coso, nella radio? No, non sto dormendo più, la radio. No, adesso non sto più dormendo, sto aspettando un po' di propagazione, la sento prima, se non ne sento già dal giorno, era poca, non ce n'è più tanta. No, lascio lascio stare. Quando ci sarà più caldo, che sarà una propagazione più buona, inizierò di nuovo a dormire qui, mi accamperò. Ieri notte c'era freschettino, comunque ieri sono uscito, ieri sera, la sera ero in camicia, sono andate un po' di freddino, si sente. Per cui cioè, deve rimanere tappati bene. Oggi magari c'è meno freschetto di ieri, perché ieri c'era quel vento di tramontana. Domani è prevista un po' di acqua, comunque stai attento per la radio, proteggila bene, ossia che vabbè, sono schizzi, non è acqua invernale potente col vento, però non si sa mai, stai un po' attento. Ok, passata, ho visto la stazione alle 21.37, è passata la stazione spaziale, ci avevo anche il binocolo, ho guardato anche il binocolo, dice, è passata all'altezza di Roma esatta. Lo so, l'ho visto e non avevo voglia di guardarla perché lo so che è bella, però mi arrivano 35 messaggi anche di notte, mi dimentico qualche volta di spegnere il telefono e anche alle 1.44 sento messaggi, la stazione spaziale sta passando sopra la tua posizione e vabbè, e niente, com'era bella? Ci vedeva bene? Sì, diciamo abbastanza bene, pensavo meglio, come l'ho vista un mesetto fa non l'ho mai vista e penso sia molto molto difficile che te la vedi così grande, gigante, tipo un aereo proprio chiaro, perfetto. Oggi vedi questa luce abbastanza veloce, tipo una stella luminosa e basta. Però l'altra volta l'ho vista proprio forse in una situazione particolare, non lo so. Passata stamattina, no, ieri che mi ha chiamato, ieri mattina sulla Sardegna, poi è passata di giorno, per cui non la potevamo vedere, proprio sopra Sassari, perfetta l'orbita, però non è che ti capita tutti i giorni, devi aspettare che capiti di notte per vederla bene. Lo so, di solito passa molte volte di giorno e non si vede, si vede anche bene, dovrebbe vedere anche bene. E voi, infatti bisogna avere l'occasione, vedere anche, ieri da un po' che non apro l'app perché come ho detto era un po' così, mi stavano sempre mandando messaggi, però adesso proverò a rivederla se passa oggi, no a domani. Sì, passa intorno alle 23 e qualche cosa, l'ho visto prima, non mi ricordo esattamente, comunque guardi sull'applicazione. E i messaggi chi te li manda di questa stazione spaziale? L'applicazione o gli amici? No, l'applicazione me li manda. Ti sei portato anche messaggi, no? Carino, c'è TV NASA, hai visto quelli, gli astronauti che stavano preparandosi per partire, poi ci sono tutti i video, eccetera, è interessante questo. Sì, la Falcon 9 stava partendo di chi è, aspetta, quello che la stava mandando, non mi ricordo mai il nome, che ha chiamato il figlio con un nome strano. È un miliardario, adesso non mi ricordo neanche io come si chiama, comunque è uno di quelli multimiliardari che hanno soldi da spendere, beato lui, da. Sì, mi si chiama Elon Musk. Ok, cosa volevo dire? Dai, un altro tirino di bianco per vedere se c'è qualcuno, attenzione 10 che vuole entrare. Nuda. Lo sappiamo, tanto sono tutti all'ascolto. Come diceva Mario Manso, un amico che non c'è più in frequenza, tutti orecchie di porco, ce ne sono tanti, neanche ti immagini tu quanta gente. Io ho trovato delle persone che non c'hanno niente a che vedere col baracchino, però erano appassionati di ascolto, lo sai, non adesso, parlo di qualche anno fa, ti ascoltavo tutte le notti, sentivo i discorsi qua, poi un altro, anche io ti ascoltavo, perché non entri, no, non mi piace. Fatti conto, se a me me l'hanno detto due persone, quante centinaia ce ne sono state che hanno ascoltato, immaginati. Infatti, comunque mi sono ricordato il nome, quello di Sassari, dell'ippodromo, è Peppino Pala. Hai detto bene, Peppino Pala è lui, quello che comanda tutto, è uno dei primi che ha organizzato tutto, di lì c'è una vita, di lì in mezzo, è il grande boss dei cavalli. La concessione dell'ippodromo di Sassari per 1000 euro. Non so dire, tutto un giro, lasciamo perdere, dai. Ma voi i cavalli vostri gare non ne fanno? No, amatoriale. Non ti interessa a te, non ti piace vedere le corse dei cavalli? È un buon ambientaccio. e ci sono andato 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, non c'ero mai andato, sempre di passaggio, e ho seguito, cazzo, vedi, di gente appassionati, scommettendo, coso. Donne pure, un sacco di donne, allora l'ipodromo di coso, Pinda, non Pinda, sì, questo Pinda, questo che c'è, si chiama ipodromo Pinda, ma c'erano centinaia di persone da tutti i paesi, venivano, cioè peggio delle partite di calcio, non mi sarei mai immaginato tanto agonismo e frenesia in mezzo alla gente. Ma un brutto vizio, qual è, le scommesse? No, io, non è per me, ma di nessun genere, neanche la lotto, toto calcio, tutti i super la lotto, niente, grata e vinci, mi abbiamo fatto anni fa un esperimento così con un po' di amici e basta, però ci siamo resi conto, io lo sapevo già da prima, che solo vince sempre il manco, come si dice a poker. Ma come, tu che sei esperto di calcio non giochi? No, sono già tanti anni, anzi dovevo fare una partita commemorativa, poi c'è stato il coronavirus, non abbiamo fatto niente, ha giocato da più giovane, così qualche partitella, ma adesso sono un po' di anni che non sto giocando. Ma hai visto che vergogna, hanno iniziato le scommesse con il problema del coronavirus. Le scommesse di che? Il calcio, le scommesse del calcio. Ma chi, le squadre stai parlando o quelli che scommettono sulle partite? E i numeri, lo Stato ha riaperto l'Enalotto, come si chiama? Vabbè, c'era il Totocaccio, ma ormai il Totocaccio non ci sta più giocando nessuno, ci sono giochi sulla vendita, sulla vincita di una squadra, sul risultato, per dire Juventus o Milan, io gioco che vince il Milan, per dire si gioca 30-1, 25-1, non so i valori quanto siano, e poi puoi scommettere sul risultato, per dire a quanti minuti segnano, se segnano nei primi 10 minuti prendi tanto, se segnano è coso, poi quanti gol può fare la Juventus o quanto ne può prendere il mio, puoi scommettere su tutto con il coso, con queste grossi network di coso, di scommesse, ma ce ne sono da tutto il mondo. E quando mettono i numeri in sovraimpressione, che vuole guadagnare lo Stato? Certo, lo Stato, ricordati, non ci rimette mai, c'ha solo da guadagnare. E già lo so, come dire, sono dei truffaldini. Quello che ho visto, così il gioco delle macchinette, quelli che buttano i soldi, con le macchine mangia soldi, sono solo mangia soldi, è il nome giusto, mangia soldi. Purtroppo lo Stato non si rende conto che si rovinano le famiglie oltre che le persone con questi giochi. E quante ne hanno rovinato? Non so, una malattia poi diventa ludopatia ed è una cosa molto difficile da curare, è come un tossico, come un drogato con la droga. Prima le hanno diffuse e poi? E via. Ok, dai, faccio un'altra chiamata generale e poi vado via, Riccardo, che sono un po' stanco. Magari ci sentiamo, ma domani uscite col camper voi? No, non credo, rimaniamo a casa, che dobbiamo anche sistemare la piscina, dobbiamo sistemarla per quando non andiamo al mare, e in settimana ci facciamo il bagno in piscina. Quanto è profondo? 1,5 metri ci arrivo? 1,10, 1,20. Ma puoi tuffare però, direi, tutto il fondo? No, già puoi tuffare. No, già è interessante la piscina, c'è la mia fratello grandicello, era un po' più grande, però già ti diverti, lui mi ha fatto dei lavoretti l'altro giorno, l'hanno già riempita, però mi sembra sia 9 metri di grandezza, punto più alto 2 metri e mezzo. È bella, vabbè, noi ci interessa solo fa almeno rinfrescarci quando fa 40 gradi all'ombra. Sì, è bello per quello, ma cosa avete, i filtri, i motori? Sì, positivo. Mettete il cloro poi? Il cloro, ce l'ho scomparto, alzi, e c'è il cestello, metti il cloro e lì raccogli tutta la sporcizia. Ma c'è anche il robottino per raccogliere le foglie e tutto? No, quello ce lo puliamo noi. All'antica, ma l'acqua cosa utilizzate? L'acqua del pozzo voi? Sì, l'acqua del pozzo, dalla pompa. E quanti giorni ci impiegate a riempirla? Ce n'è di acqua nel posto? 2 giorni e mezzo. Ah vabbè, allora già c'è l'acqua, meglio dire, perché certe volte bisogna andare con gli autobus a farsene portare. Mio fratello all'inizio se l'aveva fatta, quando doveva lavorare tutto, l'aveva dovuto fare con gli autobus. Ma da noi no, almeno abbiamo il pozzo che c'è già l'acqua che ci basta. No, già c'era anche lui, ne da tanto, anche se prima andava di più, poi ne avevano fatto uno vicino, perché prima c'aveva 24 ore di acqua, adesso fa 4, 6 ore, 8 ore, dipende, di acqua continuativa, poi se deve riempire deve aspettare. Quindi diciamo per riempire la piscina ci impiegano 4-5 giorni, però è grande, ti ripeto, non è piccolissimo. E infatti la nostra è piccola, cosa sarà? È piccola, da come me la stai descrivendo, è molto più piccola la nostra. La suocera addirittura era 28 metri, una cosa spaventosa, semiolimpionica, con la profondità minima di 2 metri, minima, nel punto più alto era 3 metri. Ma il problema è che è impegnativo, almeno noi ci mettiamo poco, e cioè anche mio zio, il fratello di mio padre, ha la cuscina grande, alta, però è impegnativa, ci ha messo diverso tempo, è impegnativa, sì. Sì, ma tanto prendete una sciacquatina, tenete al fresco, basta anche una piccolina di 3 metri, quanto è la volta? 3-4 metri? O 6 metri. Ah, 6 metri, ma se fosse più piccolina, allora già vi divertite, dai, ti puoi fare anche una sbracciata. Oh sì, quello sì. Poi se nuoti sott'acqua come piace a me ti fai anche un po' di fiato. Eia, va bene, provo a fare un'altra chiamata che sennò andiamo via in gruppo, che così mi sistemo le altre cose che devo sistemare dentro, perché stavo sistemando la postazione. Eia, dai, attenzione, canale 10 che vuole entrare, dai, non c'è nessuno, dai, allora vado via, dai. Ci sentiamo ritardi, eventualmente se coincide domani, se no le prossime. Ciao ciao, cuoriti da parte mia, ti auguro una buona notte, saluto a tutti in casa, alle prossime, ciao ciao. Ok, ciao Roberto, alle prossime, ti saluto, anch'io faccio cuoriti e saluto a tutti gli amici in ascolto, ce ne saranno appagonati in ascolto, solo che non vogliono entrare, quindi ci sentiamo domani, ciao Roberto, almeno domani possiamo fare un questo più lungo che tutto il giorno per alcuni che non lavorano. E vabbè, come detto, ci sentiamo domani. Ciao a tutti.